sugli occhi dei passanti. E le mani verso noi, la colpa è nostra che non li guardiamo mai. La colpa è nostra sempre luci dentro noi. La colpa è nostra che abbiamo sempre gli occhi nel blu. Occhi nel blu. Sulle strade con un vetro da pulire per poter mangiare un po'. La colpa è nostra che non li ascoltiamo mai. La colpa è nostra sempre chiusi dentro noi. La colpa è nostra che abbiamo sempre gli occhi nel blu. Occhi nel blu. Situazione. Tu non sbagli, ma una fase.